canale 10, CECO 10, CECO canale 10. Ora, Claudio, mi dici com'è la radio, che c'ho tutto un tappo. Bella, bella, 5 perfetta. Per forza, c'è un tappo di un ma più ma, che poi, sì, si faceva, però l'ho tolto, adesso c'è proprio il microfono a contatto con la voce, sono anche un po' distante, adesso tutto video anche, ecco qua. Sì, l'ho tolto nell'altro, ma non me l'ho ricordato. Adesso invece sono un po' tutti uguali, sempre la V8, no? Che nella testa c'è questa gomma piuma che magari serve quando così, però fa anche da tappo. Sì, ho capito. Fa da cosa fa? Via. Io sono entrato adesso, sto facendo cosa fuori, adesso me le lascio un po' e poi riprendiamo. Io c'ero stamane sono dovuto andare da coso lì a prendere dei tubi a usare, ma la madre ce li aveva, sono già in coso quasi sulla gruna per tirare su. Però non fa, adesso non fa, c'è troppo caldo, è solo diretto, e anche la scala lì, e tu mi scotta. Mi aspetto più tardi, magari, quando il sole se ne fa un po' più, sotto il tramonto, dai. Sì, ma adesso non fa, cosa non conviene adesso. Adesso conviene lasciare tutto così com'è, no, non conviene, capito? Non conviene. Aspetta un po' perché c'è sì un po' di vento, ma è poco. E qua c'è un po' di più di vento, non so che vento sia, comunque si sta molto bene. Non lo so neanche io perché essendo spalla a terra è tutto. Non c'ho neanche la bandiera per dirti la direzione. Comunque, vabbè, speriamo dopo di farcela. Intanto questi qua sono molto più leggeri. L'antenna è più leggera, ne posso dire una, metterla da una parte e vi danno metterci l'altra. A proposito, vale tutto il giudizio, anche quella, sì, una specie di inflazione. Io sto per non comprarne un'altra. Vabbè, ma intanto non c'è neanche rottura, Io da una fittizia fra, lascia le cose come stanno intanto. Non serve a niente. C'è il bidellucci, no, io non faccio più niente. Ho intenzione di tirare sull'antenna, di fare una cosa fatta bene, ma non mi interessa. Basta che mi sento, ma scambiare due chiacchiere quando ne voglia, tutto il resto è noia. Lo so, perché poi... A proposito, quelli mica mi hanno risposto, è poco che ne frega di vendere radio. Ma sai, in Italia, quasi quasi dopo lo chiamo, dico, mi sono dimenticata, se l'ha ricevuta l'email, no? Poi, quanto sono questi negozianti, non si comprende nulla. Ma lascia perdere, io non ho lo stesso, l'ho chiesto un'informazione. Sì, le facciamo sapere, non mi hanno mai fatto sapere niente. Non le ho più cercati, ci abbiamo luci. Devono essere come quel negoziante di cui stavamo parlando l'altra volta, che apre quando vuole. Ma... Sì, vabbè, tu sei stato anche cliente loro, quindi... come quello che appunto ti dicevo tempo fa, no? Cioè quando è cliente, anche per un'informazione, va trattato come cliente, non è che è solo cliente perché compra, è cliente anche quando ti chiama per chiederti un'informazione. Ma guarda, se continua così, è che se non sono fitti purtroppo, sono in Brexit, se no avrei chiamato l'azienda, quella inglese che mi ha mandato con l'apparecchio che ti dicevo, e avrei chiesto a loro, guarda, io sono sicuro che in 5 minuti ti rispondono, sono il barivedo. Tanto il problema è che finisce in dogana, anche se in Inghilterra, vabbè che forse hanno una consociata in Olanda, magari me lo mandano da lì, perché la paura è quella, capito? Compri qualcosa che poi ti finisca in dogana e lì se ne dimenticano. Sì, ma infatti, vabbè. Ok, dai, Gianfra, ci aggiorniamo dopo, che finisco di fare qualche cosettina, no? Io lascio acceso qua, accendo anche l'altra che stava caricando, va bene? Sì, come vuoi, tanto io sto aspettando per il fresco un pochino per andare lì. Oh, stamattina, qua in zona, no, vicinissimo, scendendo la discesa, c'erano i piccolini delle pernici, una cosa così curiosa. Sapete, ci sono le pernici? Abbiamo, mio vicino le dà anche da mangiare, le butta roba da mangiare, loro vengono a mangiare proprio nella strada, nella stradina, nel giardino, si calano dentro il giardino. L'altro giorno stavano bevendo una ciotola di Filippo. E lui non si è incazzato? No, non li ha visti, perché se non vede si incazza. Se non vede sì, però era sdraiato al sole, non si è manco accorto. Tanti saluti a proposito dal mio collega, il pensionato, che adesso non c'ha più l'amichetto, se vede quel cane è diventato grande, caspita, massiccio. È bello, lo so, amico di Filippo, Luigi, quello era piccolino quando giocava con Filippo, ma poi iniziato a giocare anche la grande, poi sono andato via. E ci siamo visti da poco, Luigi, ci siamo visti da poco. Avevamo una riunione di chiusura condominiale, sono dovuto andare anche io perché mi interessava il consuntivo da gennaio a maggio 2020 che io ero ancora lì, capito? Va bene, a maggio, aprile, marzo, no, andrà il 31 marzo, primo gennaio 31 marzo. Va bene. Ok, dai, ci aggiorniamo dopo allora Gianfra, che faccio queste due cosette e poi già riprendo. Ok, qua, tanto io aspetto fino alle 5, poi ci provo, vediamo un po' se mi esce l'operazione, così almeno la finisco. Antenne non ti disegni, no, antenne spezzate, no spezzate, scusa, antenne di quale là, tanto in Italia non me ne faccio niente, ci ho buttate qua. Di quale là per le VLU? Sì. Ma da base o da macchina? Da base, solo da 5 metri. Ah, già fatto la letta, non è piatto, non piatto niente. Lì c'è solo la mantova, io che diciamo si vede, non si vede, dai. Vedo, non vedo, perché è talmente messa in una posizione che non... La X50 manco si vede, è attaccata alla recinzione, con un palo da 2 metri, neanche 1,5 metri. No. Lampade butto già fra l'uovo, io non sono disfatto di quelle antenne, ho deciso di non piazzarne mai più, tanto non mi interessa, attività non le faccio. Con la C50 ascolto tutto, e boh, me ne ha fatti tutto. No, io ho visto quella grande, poi non l'ho montata, ma non la uso quasi mai, no, perché se te l'ho portata. No, vabbè, sono nella frequenza in DMR, che tu sai, però ascolto il succedere zero, ad esempio, guarda. Lo recito tranquillamente a segnale 9 con quell'antennino, quindi arrivo sino a Monterrose e lo esamino a frutti. Beh, devi già in diretta. Ascolta, ma tu c'hai la possibilità di dare il segnale? Perché portatile ovviamente c'ha cosa fare tipo telefonico. No, va bene, segnale proprio con lo strumentino. No, questo è un veicolare già fare vecchia generazione, giusto così per ascoltare, per non stare col portatilino, capito? Tutto qua, però non ho più niente, io ho letto il V1, non c'ho più niente, ho venduto tutto. Perché se cambiavo volevo vedere un po' segnali, va bene, mi riferisco alla ricezione. Ok, dai. faccio una chiamata per quel dormiglione di Natalino, e c'è per passare 5 minuti, dopodiché appena cala un pochettino, oppure si aumenta un po' il vento, vado a tirare su sta roba. Gappa, gappa, già sono qua, già ci aggiorniamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Claudio, ciao Gianfranco. Ciao Natalino, vedi, stavo cercando Gianfranco, già ci sentiamo dopo. Ehi, sempre addormentato, sì. Non sono addormentato, se no avrei potuto salutarti, come facevo a sapere che eravate qua se ero addormentato. Ma c'eravamo da un po'. Sempre in ritardo, ma con la coperta, sempre con il cazzo. Oi, Natalino. Ascolta Natalino, dimmi com'è questa radio, se va bene, perché c'era un tappo nel microfono e no, e me l'ho tolto. Già pompa. E non voglio che pompi, ma che sia perlomeno normale, comprensibile. Va bene, e neanche ieri ti sei fatto sentire, credo così. Non c'ero, capito. Infatti devi mandare la giustificazione adesso. Ieri c'era Giulio, sì, è entrato Giulio. Io l'ho sentito a Giulio stamattina. Senta un balame micidiale. Vabbè, c'è anche propagazione. Ok Natali, dai, io sono qua in ascolto che devo provare alcune cose e poi devo fare lo scalatore, dai. Ma quando c'è un po', quando cala il sole, adesso non ti conviene, è caldo. E adesso brucia anche la scala in cui devo arrampicarmi, quindi aspetto un po' che scenda intorno alle 5. Vediamo un po' cosa succede. Tanto è già tutto pronto, devo salire il tubo, cambiare l'antenna e metterci un'antenna da un'altra parte. Che scocciatura veramente. Quando è così sì. Si era troppo lenta, così è. Registrato? Non ho capito Natalia. L'antenna che si è rotta dal basso, non si è spezzata, si è rotto l'N e quindi è compromesso il tutto, è inutile metterla su, se poi non funziona, tocca togliere e così via. Mi metto una più corta, buona, sì. Allora, conviene sostituirla. Sì, quando sono così, sì. C'è un break avanti, buonasera, avanti break, ma che sparito. Era di passaggio. Io vi stavo ascoltando, lo sai cosa stavo mangiando? C'è un chicca. Natali, non si comprende nulla, nel senso di stare, non si comprende nulla. Sento quello che parla, ma te non ti sento. Ho detto che stavo mangiando ciocchita, stavo ascoltando a te e a Claudio, però nel mentre mangiavo, capito? Però è pesante a quest'ora, un po' caldo pure. Già sei farata. Beata te. No, a me no, la roba non mi piace prima perché è pesante e poi troppo caldo. Mica. Va bene. Vedi che boccia quello. Ti lascio altro da fare allora, dai. Già sono in ascolto anche io, se hai bisogno chiamo. Ok, Natali. D'accordo così, dai. Ci sentiamo dopo. Ok. Signor Natalino? Ti conosci? Avanti. Tutto a posto? A Natale c'è il bambino, cosa ti porta il regalo? E cosa ne so? Chissà se me ne porta pure. Qualche cosa ti verrà ogni tanto. Vabbè. Ma fai la camera è morta, Natale. Già me lo stava dicendo mia moglie. Ma te ne mangi, poveretta. Niente, ti ha dato break, è più brava che c'era. Va bene che in Italia non stava più lavorando, ma comunque era sempre in Spagna. Scusa un attimo, giù che sono al telefono. Ok, ok. Avanti fischio. Andiamo, andiamo. Certo. Ma beh, mi, beh, davvero andiamo, un bel bel. Ma un bel che più bello si buca. Ciao Giulio, aspetta un attimo, arrivo, Ok. Come va, Cere? Raffaella Carrà è morta. Cosa è successo qua? Raffaella Carrà è morta. Oh cavolo, ma fa male. Gli hanno detto, ma non ha, non sapeva niente nessuno. All'improvviso, poco fa è morta. Aspetto in diretta. Ma è certo. Beh, era molto grande, ha avuto una vita intensa, però così, Già, aveva poco, beh, 77, 78 anni aveva, per 42. Ah, chi lo sa, è proprio vero, quando ti chiamano non puoi dire di no. Perché mi si sono intona della, della TV veramente, ha lavorato tanto alla RAI, ha fatto tante, tante belle cose. Vabbè, purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Sono anni sui gatti per questa gente. E molti grandi ci hanno lasciato. Era anche famosissima in Spagna, in America Latina. Fatto l'icona della, della TV internazionale, non solo in Italia, ma anche all'estero, ho fatto tantissime cose. Vabbè, pazienza, sentiamo un po', già fare ciò roba al fuoco. Sì, anch'io sono impegnato, non ti racconto una cosa perché è scandalosa. Ho smontato l'antenna per metterla dall'altra parte, no? Che ce l'avevo qua sul tetto, una 200. La guardo, ho detto mi sta un po' strana, guardo sotto e sta magnando tutto l'UBL, anche l'N anzi, ci ho spaccato. Ma dimmi tu, che robaccia. L'ho detto, l'N fa schifo, io la mia 510 praticamente all'interno era tutta marcia, era marcia, ma il BL era intatto. Era intatto, non si è rotto il BL, però è tutto pratico. Però invece gli N vanno a casino, si spaccano. Robaccia, robaccia. Vabbè, dici che le sto mettendo un BL infatti. Vediamo se esce fuori. Claudio Catanella. Luca Tette Croce. Andiamo e andiamo Claudio, catta. Catta, bubu. E beh, tutto il capo di Roggero, poi fresco e niente, molto raffaella Carracca, ti mi dispiace. Cazzarola. Sa, spara contro l'auto che lo sorpassa, sulla 131 Sassari si è bloccato a Cagliari dopo ore di ricerca. Ah, bisogna stare attenti a non sorpassarsi, era un paracchio lungo. Oh, sei compagni di un'ora. I tempi sono cambiati, Beh. No, un bel niente mancante, beh, solo i tempi sono cambiati, i tempi sono sempre uguali. È che la gente sta uscendo fuori di testa, tutto lì il problema. Picca, ma non dico. Cosa vuoi fare? Sta andando bene, questa radio sta andando. Senti, come l'ha superato, non so cosa è successo, e quello l'ha sparato alle ruote della macchina. Sì, andiamo, andiamo. Un uomo di 63 anni. Sì, mi dice, dai, ci commentassi mancanti, capito? Quell'età ci diventa scemi. Praticamente ha sparato un colpo di pistola contro un'altra macchina. Via, perché l'ha superato. Ma stava accelerato, non fosse superato. Ha salito un muro, Sì, appunto, se salisi sono, diciamo, a testa a pallone. Ma... E cosa vuoi che ti dica? Ruiaia. Il caldo fa brutti scherzi. Ruiaia, branco, branco. Beh, socio, tutte le mattine ti vedo, mi. perché oggi lo fai? Ma se passi già te lo faccio il caffè. No, passo alle 6 e rientro che sono quasi le 3. Buonasera a tutti, ciao Luca, ciao Claudio, non so che se ci sia, sono entrato a gamba tesa. Guarda, stamattina proprio quello era già in piedi lì. Volevo dare una sistemata al giardino e invece gli ho detto no, non voglio, non faccio niente. Alle 8 sono uscito, sono andato a prendermi il caffè, poi sono andato a piantare segni verso le 9, sono rientrato per le 10:30. Sono, come si chiama, dopo tempo a Sant'Antonio di Gallura, dove c'è la diga dell'Iscia, là, quelle parti lì. Bella zona, bella zona, io ci ho lavorato lì alla diga dell'Iscia, ci ho lavorato, parlavo, Santa Teresa, l'ho fatta tutta la Gallura, sia la bassa Gallura e sia l'alta Gallura, compresa anche l'Anglona naturalmente. Domani ha messo 37 gradi, mamma mia, ma sotto mezzo, mezzo quel granito lì. Avanti Luca, buonasera. Ciao Fra, saluto anche a te. Domani fa caldo, è come se fa caldo. Rientrando c'erano anche elicotteri, sicuramente c'erano degli incendi, non so da che parte, verso Tula, mi venivano sulla mia sinistra rientrando da Tempio, chissà. E so che c'era, vabbè, avanti un incendio alla zona di Azzieri, anche abbastanza grosso. C'erano tre canadair, mi sembra, altrettanti elicotteri, per quell'incendio che dici tu sicuramente. Sicuramente, non lo saggio. È su al monte comunque questo incendio. Al monte incendio c'è. E mi sono detto, boh. È morta anche Raffaella Carrà, è morta. L'ho visto poco fa, stavo guardando la vita in diretta, ma l'hanno letto proprio in diretta. E lei mi è apparso su Facebook, questa è forse di quelle cazzate che scrivono, invece a quanto pare e si è andata davvero, era malata, però stava male. Sì, ma nessuno sapeva che stava male, perlomeno non se ne è mai parlato da Raffaella Carrà, a differenza di altri non hanno mai detto niente. Beh, sinceramente neanche io sapevo niente, però così c'era scritto che stava combattendo una malattia, non lo so, comunque, 78 anni non è che fosse grande, però. Quella malattia quando chiama, non c'entra a fare, assolutamente, è cosa vuoi fare. E allora Lugari, a male è andato così. No, oggi niente male, poi c'era il venticello stasera, ieri lo stesso stava bene la mattina, io c'ho tutto il giorno, e poi verso sera, verso le 4:30 se non mi ricordo, si alza un po' il vento, e tu pensi che mi sei tirato anche l'ombrello alla testa. Però me l'ho messo fuori nel giardino, dove c'è la graticola, quell'angolo lì. Allora l'ho chiuso e l'ho tolto, se no lo rompe, perché qua quando c'è il vento fa molenello lì è un casino. No, io ero lì ieri mattina, quando non era un granché ieri, sempre queste nuvole, un po' di, come si dice, di velatura. Il vento addirittura faceva un po' di piacere ogni tanto, perché troppo caldo a me non piace, un po' di brezza ci vuole. No, sta bene qua, hai visto la differenza che c'è da fuori a dentro? Assolutamente, infatti quando lei dice, ma l'aria condizionata c'è? Cioè, no, non è l'aria condizionata, già isolata bene la casa. No, stamattina da quelle parti lì, quella vallata scendendo, e c'era più fresco lì che su a Tempio. Mi sembra che mi ha dato sui 19 gradi, il Tempio era già 22-21. Ma qua è sempre arieggiato, fra, capito? Sempre arieggiato, va bene, c'è Bellucci. Ma hai visto Raffaella Carrà è morta, poverina? Di nuovo? Perché di nuovo? Non è già morta? No. Abbiamo letto poco fa che ti aveva detto di lui che è morta Raffaella Carrà e tu manco mai gaggato. Ma chi io, Cla? Ehi, tu, ehi. No, t'ha già inteso. Boh. Non adesso, quanto ho sentito. Ti aveva detto poco fa Giulio. Sì, tutta la sera che ne parlano. Verso le 4:30, 4:20 è morta. Sì, c'è la vita in diretta, Rai 1, hanno bloccato la trasmissione e hanno annunciato la morte della Raffaella Carrà alle 5:20. L'ha annunciato, come si chiama, Iattino, il marito era, se mi pare. Sì, non so se è il marito o il compagno, forse il compagno, non lo so. E comunque ha fatto lui la dichiarazione, dai. Vabbè, allora abbiamo giocato in Obanfi lì. Andato in Obanfi, siamo andati lì a ricordare la TV. Noi tutti invecchiando stanno. Perché ci è rimasto delle... Vabbè, Celentano, quanti anni ha Celentano? Anche lui già grandetto. Sì, Celentano è grandetto. Gianni Morandi, Massimo Ranieri, quei cantanti sono grandetti. Già ce n'è. Ce n'è, ma io sto parlando di TV, TV, non come cantanti. Icona proprio vera e propria, perché da Fraterra ha diretto un sacco di cose alla RAI, cantantissima, ha fatto programmi suoi, non è che ballava e cantava, non era solo una subetta, era anche una bravissima conduttrice televisiva. Ha fatto anche parecchi film, era anche una brava attrice, era proprio a tutte le ruote. Non so, anche in Spagna è uscita anche la notizia che guardando su Rai News 24, ne ha parlato tutta la Spagna, è stata anche una grandissima icona spagnola. Eh sì, dopo che qui non ha trovato lavoro, è spatriata in Spagna, l'hanno accolta a braccia aperte, anche perché è una grande professionista, o lo era, dai, diciamo così. E si conferma, una grandissima professionista. Ballava, cantava, di tutto, era bravissima, caspita. Era anche un gamma, dai, questo certi film quando era giovane, era una bella donna, Era una bella donna anche a 78 anni, non è che molte trappendi, era una bella donna sicuramente. Mai avuto figli? Lo so, trombava come una rannata da Trieste in giù, però niente figli. Adesso mi tocca scendere in campagna e innaffiare, ragazzi, non è giugana, però sono già da venerdì, gli do una passata di acqua stasera, dai, vi saluto, sono entrato giusto per salutare due amici, ok? Ciao Fra, grazie per essere entrati, anche io mi allontano le ciò, roba a fuoco, già ci sentiamo, saluta mia Anna, ok? Alle prossimine, ciao Lugari, e sentiamo dopo. Io, ciao Franco, ciao Claudio, a dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Chi è? Buonasera. Vabbè, state allora, ciao. Ma siete andati, tu c'è Bragamona a prendere il gelato? Beh, dove tu? Tu canta carizia, ci vediamo. Su nessuno lo può sapere, io perlomeno e nessun altro lo può sapere. Tiriamo avanti. Nessuno può sapere niente, siamo di passaggio, mi sa, oggi vi sembra, domani no, comunque. Meglio che vada sempre tutto bene, non problema, cambiamo discorso. Non hai sentito nessuno? Io vabbè, mi sono allontanato perché sto sempre facendo. C'è un metro bugato oggi, a quest'ora di solito c'è fresco, oggi c'è ancora questo sole che batte. Sì, oggi è caldo. Nonostante quel piccolo venticello che c'è, ma niente di più. Il caldo è a posto, molta umidità soprattutto, per cui si fa sentire. Per quanto riguarda qualcuno, ho sentito un attimo Luca e anche Natalino, ma sono spariti e non sono più rientrati. Ti aspetta che entro subito, boh, invece non sono più rientrati. Luca già stavo parlando anch'io poco fa, poi si è allontanato, però se lui va e viene, capo di esogero, e vabbè comunque, già siamo qua, vai. Io purtroppo glielo sai, non è che sono santuariamente in radio come prima, però già ogni tanto già entro a salutarci. Sì, beh certo che sì. Poi dietro l'altro non c'è niente, ne metto in televisione, è interessante, le solite cose, le solite trasmissioni da quattro soldi, oggi niente giro di Francia, niente partite, per cui sono a zero e ci riprenderemo domani, non è un problema. Domani c'è l'Italia di nuovo, e vabbè, e adesso ci sono due partite. E poi semifinali, Italia-Spagna e Danimarca-Inghilterra. Vediamo chi vince domani. Se vince l'Italia, per me ci tocca l'Inghilterra. Diciamo che abbiamo delle probabilità di poter vincere, però si sa, il calcio non è mai scontato, con qualsiasi squadra che uno gioca non è mai scontato, anche perché tante volte le squadre che sembrano meno in forma, capita il giorno che si trasformano, si galvanizzano, magari perché devono incontrare una squadra importante. Bisogna vedere, speriamo che vinca l'Italia, così andremo ai semifinali e poi si vedrà. Fino a questo momento stiamo andando bene, dai. Io dico anche, secondo me, che l'Italia, per il gioco che ha espresso in questo campionato, meriterebbe anche di vincere, però questo non è detto, perché alle volte anche una squadra che gioca in maniera diversa, in maniera più brutta, potrebbe anche vincere ed essere la sorpresa del campionato. Vabbè, comunque staremo a vedere. Infatti staremo a vedere, vediamo come va la situazione. Diciamo che la possibilità di poter vincere ce l'abbiamo. Si tratta sempre di trovare la giornata giusta, la giornata buona, e che i giocatori riescono a mantenere la forma. La forma, non dico da fuori classe, ma da buoni giocatori come non sono state fino a questo momento, soprattutto nel punto cardine della squadra, cioè il campionato, il centrocampo e la difesa, soprattutto la difesa che non ha fatto vedere il pallone a Lukaku, eccetto qualche tiro così sporadico e poi il calcio del rigore. E Chiellini, nonostante la sua età, è sempre Chiellini. Peccato che sia un giocatore che è fragile nei muscoli ormai, all'ovolo, però è sempre il migliore in assoluto in Italia come difensore centrale. Questo non si può discutere. La coppia Bonucci e Chiellini, quando sono in forma, non ce n'è per nessuno in Italia come pacchetto di difesa centrale. Lukaku non ha fatto molta strada. Infatti mi ha dato un po' fastidio quando ha battuto il rigore, che ha detto qualcosa a Donnarumma, ma avevano già qualcosa da dirsi nella partita Inter Milan sicuramente. Certo che sì, il rigore si sa, il rigore è quasi sempre scontato, però lui l'ha anche quello importante, a differenza ad esempio di altri giocatori che l'hanno fallito, fuori classe come Mapeta, tanto per fare un esempio, che è costato l'eliminazione alla Francia, perché anche i grandi campioni sbagliano, non c'è niente da fare, ci vuole sempre fortuna, ci vuole l'atteggiamento loro per poter giocare bene, ce l'hanno sempre, però bisogna trovare anche la giornata giusta, perché a sbagliare non ci vuole niente. Lui è andato sul sicuro e si è messo un palo davanti a lui che ha fregato la Francia. Vabbè, ma l'ha tirato male, troppo male, però Lukaku su Michel Gladbach 20 rigori che ha tirato con l'Inter, 15, adesso non mi ricordo quanto, 15 su 15, non ha sbagliato neanche uno. Lukaku è un giocatore straordinario, che sarebbe dovuto essere un giocatore della Juve, se un certo Dybala non avesse fatto l'imbecille. Praticamente 2 anni fa, quando la Juve stava facendo lo scambio col Manchester, e invece lui si è opposto, non se ne è voluto andare dalla Juve, io intanto non gli avrei rinnovato il contratto a Dybala. Se vuoi rimanere, rimani per la stessa cifra, perché io a te 15 milioni non te li do, a parte il fatto che la Juve non gli abbiamo offerti 15, ne ho offerto 10. Però secondo me non li merita, né 10 né meno 7 e mezzo come prende adesso, per conto mio. Ora se che te ne prenda, ma ormai io ho visto un giocatore in fase calante, non è più quel giocatore col piglio della vittoria, eccetera. Si è lasciato andare, insomma, ecco. Forse lo stai debilitando la tua ragazza, e chi ne so io. So solo che non è più nelle condizioni di 3 anni fa, insomma, ecco. Andiamo. Scusa, non giù il telefono, un secondo, ciao, Lucarie. Ok. Avanti, Lucarie. Faccio una merenda. Fai bene. No, io stasera non ho fatto merenda. Voglio fare un po' di dieta. Però diciamo che anche a pranzo non è che sono stato così tanto attento alla dieta. Va bene, dai, comunque. Andiamo una testa davanti. Vedremo un po' se riusciamo a reggere un certo tipo di alimentazione, ma sarà un bel difficile. Comunque. Ma che canto bello di un gatto della pasta asciutta, poi specialmente che quello fa mia moglie, tenendo lì i baffi. Così è Luca. Ma dico una cosa, io ma pentolo, l'oppure la mia esci buona vero, poi c'è un sugo buono. No, molto, non arricchisco molto di sai, cosa c'è da mettere all'oro, basilico, no, lo faccio semplice, ci metto un pizzico di origano ed esce con una bellezza. Lo so che è anche semplice, normale, per così dire, macarrone alla cuzza, come dico la Sassari. No, mia moglie ci mette qualcosina in più. Alle volte con lo sugo del salsiccione, alle volte i dadini della pancetta, e alle volte le salamelle, insomma, oppure addirittura la carne dello spezzatino, insomma, dipende da come te la staccavo. Per cui, ieri ad esempio ho fatto ravioli, mi ero promesso di mangiarne poco, invece alla fine me l'ha domandato il gruppo. Vabbè, comunque. Vabbè, così è la vita. Purtroppo sì. Ci vuole anche. Alle volte uno non riesce a frenarsi. Quando vedi il piatto, non è che sono un grande mangione, però già mi difendo. Diciamo che già mi difendo, dai. Vabbè, comunque. Poi mancabilmente la sera, il gelato sempre. Che cosa aggiunge a mettere pancetta. Che vuole entrare avanti? Avanti chi era quello? Ha avanti Porto Torres e di tu no, non ne ha voglia, questo ha sentito roba da mangiare, gli è venuta fame, è andato di corsa a casa sua a mangiare. Sicuramente. Vabbè, comunque. Ognuno le sue pecche. E poi il mangiare non è una pecca, è una cosa necessaria. Se no uno, se non si alimenta, non andare. Non sembra che un po' di afra lui. Noi siamo sassari e siamo sassaresi e mangiamo da sassaresi. La salotte c'ho. Cosa mangio? Adesso quelle lumacchine ce le facciamo fuori e poi adesso vediamo. Vabbè, anche quello è vero. Anche quello è vero. Oh Luca. No, io oggi niente primo, non ho voluto, niente passa, proprio per cercare di evitare un po' i carboidrati. Però dai cos'è, poi c'è il secondo. E magari rimani mezza focaccina e siamo sempre da capo. Perché tanto vale mangiare anche la pasta asciutta, anche così. Invece no, io ho detto a mia moglie, no, non le fare, io non le voglio. Ma è sicuro, e io le faccio, allora non le faccio, allora facciamo solo secondo, e poi ce l'ha, secondo e terzo. Per cui è un po' di salantina e tira a campare e siamo andati avanti così. Stavo leggendo per quanto riguarda la Carrà che è morta di quella malattia. Sì, no, lo so, l'hanno detto in anteprima stasera durante una trasmissione che c'era. Purtroppo era malata, poveraccia, grande donna, grande artista veramente in tutti i sensi, grande soubrette, grande presentatrice, grande cantante, grande attrice perché ha girato anche dei film. Ultimo elemento, per me era il numero uno delle donne, indubbiamente il numero uno delle donne, perché per una vita intera è stata meravigliosa, straordinaria, e aggettivi per esaltarla non ce ne sono abbastanza, per cui faccio andare ma sua, purtroppo la vita è crudele, o Luca. E ti riserva delle bruttissime sorprese e quando succede così sono delle cose molto spiacevoli. Avanti Luca. Purtroppo la vita è, come si dice, un po' per tutti, dai, un po' per tutti, a giro, a ruota, come si dice, siamo di passaggio. Sì, la vita purtroppo è di una qualità assolutamente crudele, perché quando arriva il momento nessuno si salva, nessuno si salva. 78 anni ancora, praticamente aveva più o meno la mia età, però si è ammalata, sfortunatamente si è ammalata e non ha resistito. Faccia l'anima sua, grande donna comunque, per me grande donna, veramente. Sì, la quella carriera veramente fantastica, faceva divertire, molto brava, vabbè purtroppo, è un casino, la vita è questa, purtroppo è questa, e non c'è altra, c'è solo questa e buca. Sì, è solo questa, e purtroppo noi non ci possiamo fare niente, né per allungarla, e per salvarla da certe sorprese, purtroppo è così. La natura arriva a un certo punto che finisce la natura dell'essere umano, e purtroppo è così. Ma comunque, speriamo bene. Poi nella vita ci sono quelli dell'incubo, dell'Olimpis, i vari centenari, 105, 106, 110 anni. Quelli sono veramente fortunatissimi ad aver vissuto e a vivere una vita così lunga. Quelli sono l'incubo dell'Inps, perché l'Inps si deve pagare per loro sempre la pensione, per cui per l'Inps sono un incubo. Ma comunque, anche loro hanno il diritto di campare fino a quell'età e anche oltre. Vabbè. posso dire. Sta contento quelli che sono morti di Covid. Non se ne comprende più nulla. No, se ne capisce più niente. E parliamo di Covid poi. Oltre 4 milioni di morti nel mondo. E nonostante tutto c'è ancora qualcuno che ha la marmellata nel cervello, la foto del cervello, che si sente dolce, ma non si rende conto di cosa vuol dire. Comunque è così. Pazienza. Per me sono persone che non hanno rispetto né di se stessi e soprattutto tanto meno degli altri. Perché tu mi dirai, ma io mi sento bene e non voglio nessun vaccino. No, tu stai sbagliando alla grande, perché il vaccino è una cosa che tu non dovresti fare, proprio per rispetto degli altri. Poi per i fatti tuoi sono cose tue, però per rispetto degli altri devi fare il vaccino, perché se ti prende il contagio tu lo trasmetti agli altri. Oltre al fatto che rischi, perché se fai il vaccino magari lo puoi prendere lo stesso, ovviamente, però in un'altra forma, in una forma più leggera, per cui è anche un vantaggio per te personalmente. Ma i due Pieravio, altre tre persone, ma queste cerimonie di Barao, li apri la testa e tu gli metti le parole dentro la testa, non lo capiscono, non è nulla da fare. Lo so, giù, ci vuoi fare. Basta non pensarci, dai. Perché più ci pensi peggio è. Quando sei ragazzini non hai pensieri, giochi, fai. Poi una volta che arrivi ai 18 anni, fare chissà di, proprio 18 anni, giù, fare chissà di. Infatti, nasce alle mani io da via 20. Nasce alle mani, 20 anni va via. Avanti giù, 60 in più, quasi. Perché ti puoi immaginare, il tempo viene e passa, è bello essere giovani, godersi la vita, però bisogna essere sempre uomini col cervello, non pellegrini con la testa ammaccata, oh Luca. Lo so. Io lo so Giulio, lo so, e vabbè, purtroppo è un casino. Vabbè, come sono volati a te, sono volati anche a me. Luigi, mi sono andata lì, avevo 18 anni, da voi. Passati 18 anni, oggi quasi 47, per dire, no? Io sono ancora giovane, però sono volati anche per me. Lo so proprio. Praticamente è l'età di mia figlia, perché si può immaginare, io ho già più due 47 anni, per cui... lo so, il tempo passa per tutti, non è che passa solo per me, passa per tutti. Ed è per quello appunto che bisogna nella vita vivere in maniera decorosa e soprattutto seria in tutti i sensi, non solo a livello di onestà, ma anche a livello di intelligenza, che quello è fondamentale per la vita e per la serenità dell'uomo e della persona in genere, per cui saremo a vedere. Vediamo se c'è Gianfranco. Gianfranco, ma non ci sei all'ascolto oggi? Ci stai abbandonando? Oh Gianfranco, oggi non ha gana, forse si sta aggiustando l'antenna. Vabbè, lui ogni tanto ha quel problema, e dunque essendo una persona precisa a non essere da fare, a mettere il sesso subito, immediatamente, Luca. Già lo so, giù, e vabbè. Riprendi, cara, che è arrivata Marina adesso, riprendete, vengo subito. Ieri stavo rispondendo al telefono, di radio. Così è qua. E allora, la caviglia, cadendo un bene. Già lo credo, lì è di moda. In quel posto lì è di moda, la graviglia, sicuramente è così. Qua deve funzionare la graticola, sono un casino. Sei sempre uguale oggi, sì, 9-10, abbondante o secco? Sì, secco, di luccio, non c'è problema. Va benissimo, fra. Certo, non è che hai pensato di farti anche un piccolo... piccolo barbecue o un piccolo forno lì, o ci penserai più di là col tempo? No, ma è più là ci pensiamo, adesso non sto pensando a niente, no? Vabbè, al momento devi cercare di riprenderti mentalmente, nel senso che devi riposare il cervello, perché in questo periodo l'hai fatto lavorare sicuramente molto, visto e considerato l'impegno che hai e che ti sei preso, per cui col tempo tutti i piaceri vengono nella vita e uno se li realizza. Lo so, quello più grande l'ho già realizzato, adesso le altre cose già vengono dopo. Certo che sì, quello è un pensiero, è un miraggio importantissimo, quello che tu sei riuscito a realizzare, come tutti del resto. Ma io, nonostante che io l'ho realizzato da tempo, però non considero la massima soddisfazione mia, non è quella, è un'altra, relativa a mia figlia, non tanto alla casa, ma relativa alla figlia, il fatto che io sia riuscito a farla laureare tranquillamente e che oggi è tranquilla e serena, che può lavorare indipendente e non solo indipendentemente da ciò che fa lì la professionista, ma anche per un altro impiego che ha fisso. Ok, ecco, tutto questo è stato per me una grandissima soddisfazione, sicuramente anche superiore al fatto che ha la casa, che ne ha una seconda e che ha anche un magazzino, per cui vede bene qua, non è la moneta quello che ti fa felice più, però ci sono altre cose più importanti, è la moneta, la tua.